Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Circa un anno fa di questi giorni, più o meno, per la precisione correva il 13 luglio 2010, ma cambia poco, una inchiesta denominata Il crimine scosse l'Italia, perché ci furono oltre 300 arresti tra Reggio Calabria, la Liguria, giù fino in appunto tutta la Calabria, ma anche a Milano, anche in Lombardia. Molti soltanto con questa operazione si accorsero che l'andrangheta esisteva anche in Lombardia. Nulla di più falso, visto che sono almeno 40 anni comunque dalla sciagurata politica del confino, attuata da una sciagurata politica nazionale, che i mafiosi sono presenti al nord. Il nord si sta però svegliando, gli anticorpi cominciano ad essere strutturati, ci vorrà del tempo, ci vuole del tempo, ma qualcosa comincia a cambiare. I comuni di Seregno e Giussano, che sono in Brianza, hanno deciso di costituirsi parte civile in diversi processi per 'ndrangheta, e recentemente in uno di questi processi c'è stata la prima simbolica vittoria, vale a dire al comune di Seregno, così come a quello di Giussano, sono stati riconosciuti 10.000 euro come risarcimento dei danni, ve li immagine, di questi comuni che, come tutti i comuni in Italia, non sono certamente comuni mafiosi, hanno purtroppo a che fare con la mafia, ma questo è un discorso appunto diverso. E di questa diversità noi vogliamo parlare con il sindaco di Seregno, Giacinto Mariani. Buongiorno Mariani. Buongiorno, salve, buongiorno radioascoltatori. Allora, che interesse, che significato ha costituirsi parte civile? Ma direi che è una presa di posizione importante, ma soprattutto doverosa, perché la dobbiamo al nostro territorio e ai nostri cittadini, perché io ho sentito la sua introduzione e la condivido a pieno. Soprattutto chi ha responsabilità di governo, e il primo cittadino, l'amministrazione è la responsabilità principale, in queste situazioni estremamente, le definirei allucinanti, aberranti, incredibili, cioè la mafia che si infiltra nei territori, costituirsi parte civile è obbligatorio, ma soprattutto un segnale importante. Certo. Lei ha detto, ha elencato 300 arresti, qui in Brianza ne hanno fatti oltre 300, e anche sul nostro territorio, parlo per il territorio di Desio e di Giussano, gli arresti per quanto riguarda il comune di Seregno sono stati 5 o 6, sì, anche se di persone che erano residenti sul nostro territorio. Certo. Anche se gli altri diciamo mafiosi arrestati comunque venivano a delinquere sul territorio brianzolo, lombardo, ecco, al di là della residenza, insomma. Certo, ricordiamo che questa inchiesta certificò che nel territorio di Giussano Seregno esiste un locale di 'ndrangheta. Che cos'è un locale di 'ndrangheta? Non è purtroppo un edificio in cui si va a prendere una bibita o si va a consumare un pasto, ma locale vuol dire una cellula strutturata, vale a dire di almeno 30 persone che sono lì e da mani a dì probabilmente pensano a come fregare il prossimo, a come inquinare le istituzioni, a come portare un'attività criminale, un'economia criminale, e oltre che una società criminale, sul luogo in cui purtroppo insistono. Però lei giustamente anche nei suoi comunicati stampa dice non è che la mafia è di oggi qui in Brianza, quindi lei è una persona attenta, corretta, ma ci sono, nota lo stesso tipo di sensibilità nella sua cittadinanza, o forse ancora fa fatica a farsi strada questo concetto? Diciamo che grazie all'operazione Infinito c'è stato un po' uno schiaffo un po' a tutti, nel senso che nessuno immaginava le dimensioni di questo tipo, no? Perché si è sempre parlato, ovviamente io ho la fortuna di amministrare una cittadina di oltre 43.000 abitanti, grandi lavoratori, grandi imprese, grandi artigiani, commercianti, operai, insomma una città molto frizzante che ha subito negli anni 70 questo confino di numerosi, definiamole così, brutte persone, perché questo, certo, diciamo in radio, evito ogni altro tipo di... No, diciamo mafiosi, punto. Ecco, diciamo pure mafiosi, e purtroppo l'aspetto brianzano è sempre stato, noi si dice in dialetto, ca e butega, no? Casa e lavoro. Certo. E quindi i nostri cittadini, come i politici, si sono sempre occupati di produrre, di fare il bene della propria famiglia, del territorio, poi invece l'operazione Infinito ci ha svegliato. Perché certo. E quanto conta, sindaco, fare rete? Cioè voi vi siete messi ovviamente come dire, in comunanza con il territorio di Giussano, ma verosimilmente anche con quello di Desio, suppongo. Ecco, sì, sì. Quanto conta fare rete tra amministratori locali e amministrazioni locali? Ma questo è fondamentale, tant'è che adesso stiamo cercando di unire tutti e 55 i sindaci della provincia di Monza e Brianza, perché noi, i due comuni che siamo stati i primi a costituirsi qui in Brianza, Seregno e Giussano, noi siamo costituiti, domani c'è, anzi il 30 c'è un'ulteriore udienza, sarebbe la quarta costituzione, perché poi i processi si sono divisi in vari, certo, vari tronconi. In vari tronconi, fare rete è fondamentale, ma non solo tra comuni, nel senso che io ho lanciato la proposta, ma già nel 2008 su altre questioni. Il fare rete vuol dire coinvolgere sì le istituzioni, ma la società civile, le associazioni, i commercianti, gli industriali, perché solo scambiandoci le informazioni e collaborando insieme si fa sistema e certo. Si combatte la mafia, perché non ci si parla tra di noi, succede quello che succede. Esatto. L'ultima domanda al volo: con questi 10.000 euro di risarcimento simbolici che avete ottenuto, che cosa farete? Ma adesso intanto vedremo di andare avanti e di portarli a casa. Il problema non era mi serviranno per pagare le altre cause, perché noi dobbiamo una quarta, perché il problema che costa. Io vedo purtroppo altri comuni che hanno problemi di bilancio, stanno purtroppo tentennando, perché poi i processi andranno per le lunghe. Eh già, ha ragione. Quindi dovremo subire dei costi imprevisti, ma credo che siano doverosi e lo dobbiamo ai nostri cittadini. Assolutamente d'accordo con lei. Io ringrazio il sindaco di Seregno Giacinto Mariani per questa testimonianza. Ringrazio Regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin, e Roberto Carullo vi augura una buona giornata.